sorta no. Se parlassi anche di te, potrei dire che ci sei, dichiarando al mondo noi, senza più fingere. Se parlassi un po'.